Ave Romani! A voi tutti il sincero nostro saluto. Tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2015, un gruppo di romagnoli è giunto a Roma munito di questionari e microfoni per intervistare i turisti stranieri in vacanza nella vostra magnifica, giubilante e ora commissariata città. Il materiale raccolto, frutto di 73 interviste audio e 186 questionari cartacei, è stato tradotto, selezionato e infine assemblato per cercare di restituire le impressioni che Roma e i suoi abitanti hanno lasciato nella società dei viaggiatori, per lo più ignari delle dinamiche politiche, giuridiche, teologiche in atto nella città eterna. Tutti gli intervistati hanno sacrificato parte del loro prezioso tempo libero per dare voce a questo sondaggio. A fronte di tanti sacrifici, vi esortiamo con nordico rigore. Assaltate! Klaus Petersen. Lucy Tate. My name is Michael Norell. I am from Stockholm in Sweden. Moi je m'appelle Dominique. De Genève. Prune. Margot. Maud. Agathe. Tomáš. Je m'appelle Guy. Helena. Julia. Et Bertrand. Vitor. Ivo. Max. Laetitia. Ciao. Ciao. Perché sei qui? Volevo sentire sulla pelle l'odore della storia. Camminare 20 chilometri al giorno e bere il miglior espresso del mondo. We love Rome. We've been here many times. Perché è la città originale, dove è cominciato tutto, dove è cominciata la cultura occidentale. The history, it's just amazing. It's beautiful. È la città dove vive il Papa, dove si trova il Vaticano, e c'è un sacco di gente giovane e felice. It's the center of Catholicism. La città eterna. Nella mia vita ho letto così tanto a proposito di Roma che ci volevo proprio venire. C'est une ville magnifique. Rome, c'est le nec plus ultra. Io volevo visitare una delle città più romantiche del mondo. On dit Rome et mourir, voir Rome et mourir. Non sarà facile, lo so, ma abbiamo visto la grande bellezza e ci piacerebbe ripercorrere i luoghi del film. Perché sei qui? Clima, cibo, siti archeologici, shopping. Pour le café et le soleil. Dove altro potrei andare quando inizia a cadere la pioggia di settembre? Avevo un weekend libero e c'era un'offerta Ryanair. C'era un'offerta Air Berlin. Non sono qui per mio semplice diletto. Voglio immergermi nello studio di questa grandezza. Voglio istruire e coltivare il mio spirito. Because we were invited by the president of our company. Sono qui perché il nostro fortunato zio ha comprato un appartamento ridicolo vicino a Campo dei Fiori. Business. Vogliamo conoscere le abitudini della buona società e scoprire come gli abitanti di Roma cercano di godersi la vita. Il faut aller à Rome. Io, là, c'est arrivé. in verità, negli anni più recenti, era diventata una specie di malattia, dalla quale solo una visita immediata poteva guarirmi. Lo confesso, non riuscivo neppure più a gettare uno sguardo su un libro latino. Troppo era maturata in me la sete di vedere questo paese. C'est la dolce vita a Rome, voilà. C'est une ville, si on vivait pas, voilà, on adorerait vivre ici. On aime cette ville, on aime l'ambiance, on aime l'Italie, on aime les Italiens, on aime le Caravage, on aime manger en Italie, on aime les cafés, voilà. In quanto città eterna, potrebbe regalarmi l'eternità, essendo io un'esistenza effimera. Non si sa mai. Tutto questo stare in fila è un gesto di remissione, docile e incondizionato. E allora, stiamo in fila. Come ti ha accolto questa città? Siamo stati caricati da un tassista molto simpatico che ci parla bene inglese. Ma quando siamo arrivati, ci ha mollato in mezzo alla strada, spiegandoci tutto in italiano. 145 euro dall'aeroporto. Very honest. E sono quasi morto di paura nel tragitto. He was honest. He was very honest. È un peccato che non ci sia nessuna indicazione in francese. Siamo pure confinanti. È triste. I romani non amano i francesi. Deve essere per via di Napoleone. La prima sera abbiamo fatto sesso 3 volte col portiere dell'albergo e poi distrutto una festa. Il y a un'energia positiva. Come ti ha accolto questa città? Una lunga fila d'attesa alla metro Spagna perché 3 macchinette dei biglietti erano guaste. In generale, molte code. Ape! Conviene arrabbiarsi? No. Qui occorre far ricorso a quella riserva di pazienza che bisogna aver messo da parte prima di presentarsi in questo paese, pieno di piccoli despoti e di piccole vessazioni. E il y a un'energia positiva. Mi dispiace che nessuno ci abbia detto ciao. Amazing people here. C'era uno sciopero e tutti avevano deciso di goderselo con un buon umore che mi ha messo paura. Amazing food. Per prima cosa abbiamo assaporato la libertà di attraversare la strada come fanno i romani. Very nice music. Come ti ha accolto questa città? Male. Ho visitato 4 paesi in 3 settimane. Roma è stato il posto peggiore. Turisti sgradevoli, italiani arroganti, i maschi molto aggressivi. Ape! Il mio ospite è stato molto gentile, specialmente perché ha detto che gli piacevano le mie belle scarpe nuove. Come ti ha accolto questa città? Niente di speciale. Sembrava solo l'ennesima grande città in cui stavo entrando. Ape! Roma non ti vede. Non si accorge che sei arrivato, come non si accorge che te ne vai. La sua è un'indifferenza calda. Cosa hai visto a Roma? A Roma ho visto una quantità spaventosa di turisti. Ma ho visto anche gente che lavora. Ho visto un numero eccezionale di suore, di frati e di gusti disponibili nelle gelaterie. A Roma ho vissuto più epoche contemporaneamente. A Roma ho visto edifici sovradimensionati che gettano già in anticipo l'ombra della loro distruzione. Ho visto che a Campo dei Fiori, Giordano Bruno, continua ad essere bruciato. Ho visto che la Basilica di San Pietro sembra più piccola delle sue reali dimensioni e tuttavia è troppo grande. Ho visto una fontana potente. Ho sentito il suo potere. Funziona. The fountain, you know, to be closed, that's a little strange. You know, tourist season is still on. If they're going to make repairs, I would think that they would make repairs in November, December, huh? When there's not so much tourism. Cosa ti ha offerto Roma? Degli obelischi che sembrano soprammobili, tutti autentici, ma con un'aria da porta portese. Tutti quei venditori in Piazza Navona iniziano proponendoti uno di quei cosi volanti a 5 euro e finiscono per dartene due a 1 euro. I centurioni in carne ed ossa! Silenzio. È un po' strano dover pagare per illuminare i quadri nelle chiese. Dovrebbero essere sempre visibili. Ecco, vai a vedere i soffitti della Cappella Sistina e c'è un altoparlante che fa... È insopportabile. Cosa non hai trovato a Roma? Non ho trovato un McDonald's, ma è meglio così. Poi non ho trovato l'aria condizionata e... Ah, è un bel negozio di scarpe. C'è poca arte moderna. Ero emozionata all'idea di vedere il Papa, ma adesso è in America. Cosa non hai trovato a Roma? Cestini della spazzatura per strada, trasporti pubblici decenti, un po' di silenzio. Non abbiamo incontrato persone calorose e amichevoli. Cosa non hai trovato a Roma? Bagni pubblici, negozi aperti 24 ore. Io non ho trovato l'amore come succede nei film italiani. Ma magari in questi giorni... Cosa non hai trovato qui? Puntualità, è la natura dei romani, il loro DNA. Generazione dopo generazione si tramandano la consuetudine dell'eterno ritardo. Cosa non hai trovato qui? Educazione e disponibilità. È il posto meno amichevole in cui sia mai stato. Non tornerò mai più a Roma. Cosa non hai trovato qui? Un fornaio. Ma come fate? Cosa non hai trovato qui? Non ho trovato pace perché tutti hanno un sistema d'allarme, ma nessuno lo sa usare. Cosa non hai trovato qui? In altri luoghi. Bisogna andare a cercare le cose importanti. Qui se ne è schiacciati, riempiti a sazietà. Cosa non hai trovato? Non ho ancora visto gli anziani al balcone che guardano i passanti. Cosa non hai trovato? Le cose che compri qui sono le stesse che trovi ovunque, a Londra come a Copenaghen. Cosa non hai trovato? Una connessione wifi decente. Cosa non hai trovato? Qui è tutta una sfida. Anche uscire dall'aeroporto. Organizzazione zero. Cosa non hai trovato a Roma? No, non c'è qualcosa che non ho trovato. Perché non so cosa cercavo. Non. Il n'y a pas quelque chose que je n'ai pas trouvé parce que je crois que je ne savais pas ce que je venais chercher. Abbiamo chiesto ai turisti quale fosse il loro ruolo all'interno della città, proponendo una serie di risposte possibili, ma offrendo anche la possibilità di inventarne altre e di spiegare le motivazioni della loro scelta. Ecco un bilancio sintetico del sondaggio. Alla domanda, secondo te i romani ti considerano come... Il 37% degli intervistati ha risposto un cliente. Roma è in vendita e lo sanno tutti. Il 19% degli intervistati ha risposto una persona perché si sente trattato con genuina cordialità. Il 15% degli ospiti si sente trattato da amico perché i romani sono tutti sorrisi. L'11% dei turisti si sente merce perché l'ospitalità è falsa e superficiale. Un altro 10% ha dichiarato di sentirsi semplicemente un turista, che riassume un po' tutte queste risposte. Il 7% invece si sente fesso perché molta gente cerca di vendergli delle cazzate e perché i ristoratori fanno i furbi con il resto. Il 2% si sente considerato come un benefattore perché è un'importante risorsa economica. Poi ci sono 3 cinesi che si sentono dei polli da spennare, un tedesco che si sente considerato come un barbaro perché gli altri turisti lo sono, un danese che si sente un idolo perché sa bere tanta birra e infine una che ha detto semplicemente: non credo che ai romani importi di noi. Ci sono talmente tanti turisti che siamo solo parte della folla. Ti sei mai trovata in una situazione sgradevole a Roma? Sì, qualcuno ha cercato di borseggiare Nancy in metropolitana. Quando l'abbiamo affrontato, ha bloccato le scale mobili a metà corsa. Ma davvero? A San Lorenzo, un marocchino ha cercato di portarci via orologi e iPhone. Ammazza, oh. Ieri sera, una zingara che mi aveva chiesto dei soldi mi ha sputato addosso. Ma davvero? Sono 15 giorni che i suonatori di cornamusa ci svegliano alle 4 del mattino. È gente capace di far odiare la musica. Ammazza, oh. Io non voglio comprare un selfie stick. Scialla. Gli unici problemi li ho avuti con dei turisti di merda. Buttateli fuori tutti. C'hai ragione. Poi la gente dice: fanculo, cazzo, porca miseria, cose così. E sti cazzi? Hai mai preso un autobus? Oppure, hai mai cercato di essere in orario? È semplicemente impossibile. C'hai ragione. Lo sciopero. Abbiamo camminato 12 chilometri. Poveretto. Oggi l'autobus non passava mai e quando è arrivato era già pieno. In molti hanno cercato di salire lo stesso, per cui urla a spintoni. Poveretto. L'inciviltà la sperimenti a qualsiasi semaforo. Al primo incrocio già ti mandano a quel paese e lo fai anche tu, non puoi essere da meno. Li mortacci tua. La corruzione nasce quando la gente comincia a parcheggiare sul marciapiede. E sti cazzi? Passiamo il nostro tempo in fila o fermi ad aspettare un autobus. Ma non è così male. Siamo spinti a prenderci un tempo per riflettere sulla vita. Mannate tutti a fanculo. L'unica cosa davvero negativa per me è che non conosco nessun italiano con cui parlare. Mi sento un po' solo. Poveretto. Siamo state spintonate dal personale dei musei. È scioccante. Sono le persone istituzionali ad essere antipatiche. C'hai ragione. Sono stato in un ristorante vicino a Piazza Navona. Volevo prendere una pizza a 10 euro, ma mi hanno fortemente consigliato il piatto del giorno, del pesce arrivato da Napoli, che ho pagato 50 euro. Scialla. Ormai vedo chiaramente che cosa si ammira qui a Roma. I tanti circoletti che vivono ai piedi della signora del mondo lasciano trasparire un certo provincialismo. Bisogna abbracciare un partito. Lodare artisti e dilettanti, denigrare i concorrenti, piegarsi a tutti i capricci dei grandi e dei ricchi. Ammazza. Dimmi 3 aggettivi per descrivere un romano. Elegante, bello, espressivo. Attivo, spontaneo, esagerato, amichevole, passionale, vitale, serio, tutto nello stesso momento. Amichevole, tranquillo, indifferente, felice, rispettoso, arrogante, sporco, religioso, canterino, aperto, impaziente nel traffico, stilosissimo, Nasoni. Classico, colto e grafomane, intenso, affascinante, disponibile ad aiutare, cattolico, antico, autentico, felice e piacevole, carini ed eleganti, antiquato, carino, sexy, apero lo spritz, sesso e divertimento, amichevole, rumoroso, cattivo, gradevoli e carini, ci sono molte belle ragazze, pieni di carattere, eleganti gli anziani, amichevoli e disponibili, di carattere, amichevole, accogliente, filippino o indiano, non ho ancora visto un romano. Tradizionalista, patriottico, frettoloso, felice, occupato e preoccupato, sgradevole, arrogante, antipatico, vitale, aperto, concentrato sugli affari, pirati della strada, rilassato, amichevole, elegante, rumoroso, divertente, elegante, amabile, aperto, elegante, esuberante, gradevole, simpatico, elegante, interessante, vibrante, alla moda, schietto, impulsivo e comunque elegante, amichevole, caloroso, elegante, alla moda, rumoroso, orgoglioso, esuberante, modaiolo, caotico, passionale, vanesio, belloccio e ben vestito, affaccendato, espressivo, appassionato, caloroso nell'accoglienza, espressivo nella gestualità, aperto nel dialogo, travolgente, travolgente, travolgente, casinaro ma vero, infinito, artista della vita, amante del cibo e del bello, fico, sgradevole, rilassato, simpatico, vivace, accogliente, disorganizzati, insicuri, burini, simpatici, disorganizzati, poetico, caotico, tranquillo, benevolo, rumoroso, caotico, disordinato, sempre in ritardo, divertente, rumoroso, sporco, rumoroso, piccolo, stiloso, antico, bello, di gran gusto, rude, antipatico, arrogante, fantastico, sveglio, caotico, vino, vino, vino! Sporco, antiquato, costoso, storico, artistico, letterario, affaccendato, storico, orgoglioso, disponibile, piacevole, cortese, piccoletto, impiccione, rozzo, basso, impiccione, sicuro di sé, stiloso, orgoglioso, appassionato, espressivo, si gode la vita, elegante, stravagante, raffinato, parla a voce alta, elegante, sorridente, accogliente, matte al volante, grafomane, parla con le mani, cinico, sorridente, avvenente, cortese, elegante, sorridente, non li distingo, forse quelli eleganti un po' suadenti, sorridente, positivo, vitale, accogliente, alla moda, italiano, rumoroso, stiloso, rozzo, bello, cosmopolita, furbo, cinico, un po' stronzo, chiacchierone, incosciente, ruffiano, inaffidabile, cinico. Non possiamo giudicare i romani in generale, possiamo solo giudicare i commercianti. Temperamento forte, generoso, flessibile, simpatico, aperto, bravo, volubile, rumoroso, sexy, confusionario, comunicativo, amichevole. Le romane sono sempre al telefono, generoso, aperto di mente, gentile, disponibile, attivo e coraggioso, perché non è facile vivere qui, paraculo, cialtrone, di cuore, paraculo e divertente. Me ne freghiste, leggero, insolente, divertente, cinico, pigro, prepotente, indolente, schietto, teatrale, buono e carogne insieme, crudele, dispettoso, ironico, giocoso, sbraccato, superficiale, cialtrone, cialtrone, cialtrone, cialtrone, carino, stiloso, rilassato, arrogante, presuntuoso, gentile, brillante e naturalmente cascamorto. Questa città può favorire una conversione religiosa? En fait, même si, je pense que même si on n'est pas croyant, il y a un tel. Penso che anche se non si è credenti, si è talmente catturati dalla bellezza delle costruzioni che per forza di cose si resta un poco scossi. Je pense qu'on est forcément ému et il y a une sorte de. Mais moi je suis pas totalement d'accord parce que hier on est allé visiter la chapelle Sixtine. Io non sono del tutto d'accordo. Quando ieri siamo andate a vedere la Cappella Sistina, mi aspettavo di trovare un luogo veramente emozionante. Ma lì dentro tutti parlano, non c'è nessun raccoglimento religioso o quantomeno rispettoso di quel che rappresentano quegli affreschi. E quindi trovo che la conversione sia fuori discussione. Anche questi grandi eventi promozionali, come il Giubileo, servono solo a far girare i soldi. E forse Roma non ne sa approfittare. Ma in ogni caso qui la religione fa parte del turismo. È una cosa che serve ad attirare qua le persone, ma che risulta un po' falsa. Mais toi, t'es pas d'accord. Moi, j'ai ressenti quelque chose dans la Chapelle Sistine. Io però ho sentito qualcosa nella Cappella Sistina. Mi sono sentita immersa nell'opera di Michelangelo, nel mio rapporto con la religione. Alla fine la reazione è personale. bisogna riuscire a fare il vuoto nella propria testa e dimenticare i turisti. Riuscire a fare il vide dans sa tête, dans ces lieux-là, il faut réussir à oublier les touristes, c'est ouais. Juste. Questa città può favorire una conversione religiosa? For sure, I'm already feeling like a saint. Sicuro, io mi sento già un santo. Io non mi lascio convertire, questo è certo. Io voglio dire sì, sì, perché la religione è un prodotto che si vende bene. Qual è la religione? Forse non al cristianesimo, ma a qualcos'altro. Io ho visto un ragazzo col turbante. Probabilmente lui si è convertito. So probably he was converted. Questa città può favorire una conversione religiosa? Converting someone, yeah. Yeah, it could be. If you are in doubt and you are searching for something and... Una conversione? Sì, potrebbe essere. Se hai dei dubbi, se sei alla ricerca di qualcosa. Conosco persone che sono venute a Roma e grazie ad alcuni incontri ed esperienze importanti hanno davvero cambiato la direzione della loro vita. Questo potrebbe anche ripercuotersi sul proprio credo. Perché no? Se ti senti perduto e stai cercando qualcosa, se hai bisogno di affrontare l'ignoto. Io non sono religioso, ma mi sento molto bene dentro le chiese. Ma c'è dell'altro che può provocare delle conversioni. Ed è vedere a Roma dei cristiani felici, uniti. Tutte queste suore, questi monaci, sembrano in piena armonia con loro stessi. Ed è la cosa più importante. Sembra davvero che si siano trovati. American priest walking and talking and they look they are in harmony with themselves. That's the most important thing. They feel they have found themselves in some way. Dimmi il nome di un romano. Caesar. Julius Caesar. Caesar? César, Auguste, Néron, Trajan, Adrien... Hadrian. Adriano. Hadrian. Marc Aurèle, Antonin le Pieux... César. qui d'autre? Il y en a plein. Othon, Vitellius, Aelius... Marcello Mastroianni. Adriano. César, Romulus, Rémus, qui d'autre? Augustin... on a vu qui tout. Faustine, Crispine. Ah oui, Vittorio Emanuele II. Marcello Mastroianni, mais je ne suis pas sûr qu'il était romain d'ailleurs. Questi romani sono tutti morti. Sai dirmene uno vivo? Pope Francisco. Berlusconi. Berlusconi. Sophia Loren. Berlusconi. He's not Roman, right? Berlusconi. Mia cugina. Bianca Africano. Roberto Benigni, il romain? Non, je ne sais pas. Tutti. Wait, we're Australian. I don't know. Sorry. Sorry. Monica Bellucci. Totti. Roman? Oh, Totti. Oh. Francesco Totti. Oui, Francesco. Francesco Totti. Ah, Francesco Totti. No. Io non conosco nessun romano. Noi invece ne conosciamo uno. Vittorio Giacopini. Ave, romagnoli. Cosa possono scoprire i turisti qui? Che cosa non possono scoprire? Non possono scoprire niente, perché per scoprire devi cercare qualcosa. Allora cosa vanno cercando? Ma li vedete in giro per Roma, incolonnati, col cretino davanti, che c'ha il cappellino, l'ombrellino, la sciarpetta, e dietro tutti con l'ombrellino, la sciarpetta, magari col Walkman, che camminano attraverso sempre le stesse strade. Gli stessi percorsi, di che cosa vanno in cerca? Di quello che hanno già visto, di quello che già conoscono, dei simulacri di una Roma che è passata attraverso lo spettacolo di Anita che esce dalla Fontana di Trevi, la scalinata di Piazza di Spagna, vanno cercando la Roma della grande bellezza, vanno cercando la bocca della verità, vanno cercando quello che hanno già visto. Maledici o benedici la città e i suoi abitanti? C'è questo verso di Shakespeare, Let's Rome in Stibermelt, che Roma affondi, che venga affogata, si miscoli con il suo Tevere, con il fiume. Beh, io penso che questa città ormai non può essere più salvata, va maledetta, va soltanto maledetta, abbandonata, va superata. C'è solo una cosa vitale dentro alla città, il fiume che l'attraversa, questo fiume giallo, catarroso, sporco, schifoso, che a un certo punto deve saltare, deve far saltare gli argini, deve diventare più grande della città. Tutto deve diventare acqua, e quando Roma sarà tutta allagata dal Tevere non sarà nemmeno un lago, non sarà un bel lago, sarà una marana, una fogna, una pozza, ecco, io la maledico, che vada a mollo. Benedici o maledici la città? Mi verrebbe da dire lunga vita a Roma. Ma da quanto tempo è qui? 3.000 anni, tipo? Ha già avuto tutte le benedizioni possibili. Non ne ha bisogno. Possa la vostra città sopravvivere a lungo e attrarre sempre più turisti. Vi preghiamo, romani. Ricordatevi che vivete nella città più bella del mondo. Voi lo dite sempre, ma forse non l'avete capito davvero. Forse non avete capito fino in fondo dove vivete. Vi preghiamo, romani, ricordatevi che vivete nella città più bella del mondo e che la sua bellezza è sotto la vostra responsabilità. Spero che tutti i romani siano costretti ad utilizzare i trasporti pubblici e spero che vengano privati dei loro smartphone per il resto della loro vita. Possa Roma continuare ad essere abitata dai romani ma amministrata dai tedeschi! Che i romani che fanno mangiare merda ai turisti mangino merda per sempre. E sai perché? Perché se fai una pizza cattiva non è che risparmi, sei solo uno stronzo. Quindi, se fai una pizza cattiva, brucia all'inferno! 5, 4, 3, 2, 1, fuoco! Non c'è nessun giusto. Nemmeno uno. Non c'è chi comprenda. Tutti hanno smarrito la via. Insieme si sono corrotti. Non c'è chi compia il bene. Non ce n'è neppure uno. Il 5 di novembre inizierà un processo storico. Vi benedico tutti. Adesso i parchimetri funzionano. C'è un'evoluzione. Bravi! Che le vostre chiese si trasformino in moschee e le vostre strade si abbeverino del sangue degli infedeli. Possano le vostre fontane gettare denaro al posto dell'acqua. E non vi deluderò, non vi deluderò! Maledetti! Siate maledetti per aver venduto Eric Lamela al Tottenham! Che bello! Che bello! La lupa ingoierà il sole e ciò apparirà agli uomini una grande sventura. Le stelle cadranno dal cielo, la terra intera tremerà, gli alberi si sradicheranno dalla terra e i monti rovineranno, e tutti i vincoli e le catene si spezzeranno e si infrangeranno. Allora la lupa sarà libera. Maledetti, maledetti, dovete schiacciare nella polvere come dei vermi maledetti. Altre rome verranno. E io non so immaginarne il volto, ma avrò contribuito a formarlo. Roma vivrà. Roma non perirà che con l'ultima città degli uomini. Quali delle città visitate è piaciuta di più a vostra altezza? Ognuna nel suo genere è indimenticabile. Tuttavia potrei dire Roma. Sì, Roma, senz'altro. Il ricordo di questa mia visita non mi abbandonerà, intanto che vivrò. Vuoi aggiungere qualcosa? No. Adesso devo proprio andare. Grazie. Arrivederci. Ciao.